Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. State sentendo Glassworks di Philip Glass, una musica bellissima, avvolgente, ipnotica, che evoca il vetro e il lavoro. Vetro e lavoro sono i due pilastri di SMPAC, una piccola impresa di Filino nel cuore del Parmense che in pochi anni è diventata il primo produttore italiano indipendente nel settore delle fiale. Dopo le fiale per i farmaci, produce anche i flaconi per la cosmesi. Dopo le multinazionali a produrre le fiale in vetro per le vostre medicine, c'è la Parmense SMPAC, nata dalla buona volontà dell'ex operaio Barilla Albino Mezzadri, che nel 1997, quando aveva solo 64 anni, praticamente un bambino per gli standard italiani, ha passato testimoni ai figli Sergio e Michele, una vera anomalia visto che questo è il paese dei novantenni al potere. SMPAC ci interessa perché è molto rappresentativa di quella che è la vera manifattura italiana, di quello che è il cuore manifatturiero italiano. Noi siamo i primi al mondo nel packaging, nell'imbottigliamento, nella realizzazione delle bustine del tè, nella costruzione di macchine, nella costruzione di macchine che fanno le macchine. La meccanica che tiene in piedi questo paese è quella che ho appena detto. Normalmente si pensa che siamo un paese di cuochi, un paese di albergatori, un paese di sarti. Non è così, queste sono solo le cose più appariscenti. Ma passiamo a parlare con Michele Mezzadri, che ci racconterà la storia della sua azienda e dove sta andando e che cosa significa. Buongiorno. Buongiorno a lei, grazie dell'invito. Allora, quanto è importante che una fiala sia bella? Direi tanto perché il bello è un concetto che ci segue durante tutto il corso della nostra vita, e per cui perché non applicarlo anche alla produzione di una fiala per iniettabili. E dunque è un po' come fosse la bottiglia della Coca-Cola. Assolutamente, la forma, la simmetria, le geometrie, le raggiature del vetro comunque devono avere una loro importanza anche su un prodotto, chiamiamolo usa e getta. Ma come si fa ad associare l'idea della bellezza a fiale e flaconi? Com'è che funziona? C'è qualcuno che li disegna, li fa lei, vengono proposti dal cliente? Che succede? Come funziona il processo? Assolutamente non disegno nulla. Il processo, per quanto possa apparire complicato, è gestito da impiantistica fondamentalmente italiana. Questi impianti devono essere gestiti, mantenuti e settati da tecnici che ci prepariamo al nostro interno, quindi è molto importante la ricerca e la selezione del personale, e a cui dedichiamo veramente tante risorse. Tra l'altro voi siete recentemente passati da 80 a 130 persone. Sì. Grazie ad un'acquisizione del luglio scorso, il nostro stabilimento di Parma si è arricchito, oltre a quello di Barcellona che già esisteva dal maggio del 2014, si è arricchito di un altro importante tassello nella provincia di Monza Brianza. Ecco, quando io sono venuto a visitare la vostra fabbrica di Filino, però al lavoro ho visto solo donne. È una bella questione. Perché costano di meno? Perché vuole risparmiare? Assolutamente no. La donna è assolutamente diversa dall'uomo come impostazione di lavoro. Ha assolutamente più attenzione, più cura, e la ripetitività non fa paura alle donne, ma non solo nel campo della produzione della fiala, naturalmente. E certo. Ma nel suo settore come si raggiunge il risultato di un prodotto eccellente? Anni. Anni di lavoro, di impegno, di prove, di test importanti, perché non dimentichiamoci che noi produciamo la prima barriera di protezione, un farmaco, e tantissime volte un farmaco liquido iniettabile, parliamo di vena. Ci interrompiamo un attimo per la pubblicità e gli avvisi sul traffico. Restate con noi. Fabbrica 2.4. Rieccoci in linea, stiamo parlando con Michele Mezzadri di SMPAC, che è una società di Felino nel Parmense che produce fiale per le medicine e flaconi per l'industria cosmetica. Una società nata nel 64 dal padre Albino, primo sbagliato a dire i fratelli che la gestiscono sono, oltre a lui, il maggiore Alberto e il più piccolo Sergio. Ma torniamo a parlare di manifattura. Ci può raccontare un po' la storia delle sue fabbriche, quanti stabilimenti ci sono, come funzionano, cosa fanno? Abbiamo 3 stabilimenti attualmente. L'headquarter è sicuramente a Felino, in provincia di Parma, ed è l'unico stabilimento che produce i 2 prodotti della nostra gamma, se permette la correzione, fiale e flaconi per farmaceutica ambedue. È uno stabilimento che ad oggi impiega una 70 di persone. È anche lo stabilimento dove ha sede tutta la direzione, quindi tutto lo staff. Gli altri stabilimenti, rispettivamente arrivati alla metà di maggio del 2014, quello di La Granada, una località a 40 km da Barcellona, in questo caso produciamo solo ed esclusivamente fiale, ed è uno stabilimento che di recente è stato qualificato norme ISO GMP 15378, e è uno stabilimento che lavora un'ottima qualità, veramente un'ottima qualità. L'abbiamo rilevato, come dicevo, nel maggio 2014 e nel giro di pochi mesi l'abbiamo veramente rimesso in sesto e pienamente funzionante e operativo. Come dicevo prima, verso la metà di luglio 2015 un'ulteriore acquisizione, Monza Brianza, anche in questo caso una produzione su 12 linee esclusivamente di fiale. Ma andrete avanti a fare altre acquisizioni? Avete bisogno di crescere voi? Assolutamente, assolutamente. Quello che mi ha colpito è che l'EBITDA è molto consistente, cioè la società, pur essendo di dimensioni piccole, parliamo di 16 milioni di euro, ha un EBITDA, se non sbaglio, del 12%, giusto? Sì. Senta, ci interrompiamo un attimo per sentire una scheda sui numeri e sulla storia di SMPAC. Che cosa hanno in comune un medico algerino, un estetista inglese, una casalinga italiana, un industriale del farma brasiliano? Risposta: il vetro borosilicato sotto forma di fiale e flaconi. Oggetti con cui tutti prima o poi abbiamo avuto a che fare e che rappresentano nel gergo manifatturiero il packaging primario per il farma e la cosmetica. Attualmente in Europa si consumano tubi in vetro borosilicato europeo nella misura di 76.300 tonnellate complessivamente. Di queste, 23.000 tonnellate sono destinate a diventare fiale e 32.000 flaconi. Il primo produttore indipendente europeo che trasforma tubi di borosilicato in fiale e flaconi è italiano. Stiamo parlando di SMPAC, dove S e M contengono il DNA dell'azienda. S sta a ricordare lo specifico manifatturiero, soffieria, perché il vetro diventa una fiala lungo un processo in cui viene riscaldato, soffiato e plasmato da macchine speciali. Mentre M è l'iniziale del cognome della famiglia che possiede SMPAC, la famiglia Mezzadri. Il contatore industriale dell'azienda, fondata dall'ex operaio Barilla, Albino Mezzadri, nel 1964, si fermava a 10 milioni di pezzi l'anno. Mentre oggi, quando alla guida ci sono i suoi figlioli Alberto e Michele, lo stesso contatore stenta a fermarsi a 500 milioni di unità l'anno. E sono fiale e flaconi in uscita dai 3 stabilimenti industriali. Ovvero la casa madre a Felino, nel Parmense, lo stabilimento di Bernareggio in quel di Monza Brianza, infine quello di Barcellona in Spagna. Da lì i vetri SMPAC vanno in tutto il mondo, ma soprattutto in Europa, Sud America e Nord Africa. SMPAC opera dunque nel packaging primario farmaceutico e cosmetico a livello globale ed ha dimostrato di saper crescere negli anni sia a livello organico che tramite acquisizioni. Lo dicono i numeri: dal 2013 al 2015 il suo compound annual growth rate, che indica il tasso di crescita, è quantificabile con un più 27,1%, mentre l'EBITDA del 2014 è stato del 12%. E per il 2015 le stime parlano dell'11,8%. Il giro d'affari è intorno ai 16 milioni di euro, con importanti ambizioni di crescita. Una progressione che risponde al contesto globale in cui SMPAC agisce, uno dei più dinamici. Secondo una recente ricerca condotta da Life Science Industry, nel mondo il fabbisogno di contenitori in vetro per uso farmaceutico e cosmetico crescerà sempre e costantemente. Il fabbisogno farmaceutico, in particolare fra il 2014 e il 2018, segnerà un tasso di crescita del più 6,71%. Ecco, dopo i numeri e la storia della scheda, riprendiamo a parlare con Michele Mezzadri di SM Pack, che è un'azienda manifatturiera che produce fiale e flaconi, che sono tipici rappresentanti di quello che è il cuore della meccanica italiana, che è una meccanica fatta di packaging, di imbottigliamento, di confezioni e di quant'altro, nel quale siamo leader mondiali. Stavamo parlando della vostra espansione sui mercati esteri. Quanto vale l'estero per voi e quanto pensate di crescere? Ad oggi il mercato estero corrisponde a circa il 70% del nostro fatturato. Siamo sicuramente in espansione, ma anche il mercato interno è sicuramente una quota importante, che sta avendo anche proprio negli ultimi mesi dei discreti importanti sviluppi. Ecco, ma oltre alla Spagna, dove c'è lo stabilimento, in quali altri mercati siete presenti? Praticamente Nord Europa, bacino del Mediterraneo, ovunque. Sicuramente il nostro interesse maggiore in questo momento va verso la scoperta del mercato americano, che è sicuramente importante, però diciamo che dal Messico all'Argentina siamo praticamente presenti ovunque. Siete presenti ovunque, anche senza bisogno di avere stabilimenti in loco, perché non c'è un grosso problema di costi di logistica, no? Per il prodotto. Ma lei deve tenere presente una cosa, il nostro prodotto va da dimensioni veramente piccolissime a dimensioni medie. Le voglio dare un esempio: una sigaretta è praticamente il volume di una fiala da 2 ml, che è quella più prodotta e distribuita nel mondo. Si immagini quanti pezzi possono entrare all'interno di container. Quindi lei non pensa che piccolo è bello, pensa che se non si raggiungono certi volumi nel mondo globalizzato non si riesce a rimanere piccoli. Fondamentalmente non ci interessano tantissimo i mercati giganti. Preferiamo specificizzare molto il prodotto per attaccare mercati solo apparentemente di nicchia, ma decisamente più redditizi. Ecco, ma perché rispetto a grandi multinazionali, rispetto a colossi che sono 10-100 volte voi, una società farmaceutica dovrebbe venire fino a Felino per farsi fare le fiale? Ma intanto può venire anche a Monza Brianza e a Barcellona a farsi fare le fiale. Ecco. Questo è un lato molto importante. Ma la nostra è un'azienda assolutamente flessibile. Abbiamo organizzato, potrebbe sembrare una sciocchezza, abbiamo organizzato le ferie per restare aperti 240 giorni l'anno. I nostri stabilimenti in agosto lavorano. Abbiamo organizzato la produzione in modo flessibile. Non esiste la parola no come risposta ad un cliente. Quindi il massimo della flessibilità è un buon prodotto, sicuramente ci mettono in buona luce rispetto al mercato. Ecco, voi vi definite grandi artigiani e non ancora piccoli industriali, eppure avete risolto brillantemente il passaggio generazionale, sapete attirare nuove persone al vostro interno, sapete delegare a manager e tecnici, volete investire in ricerca in nuovi stabilimenti, avete accesso a mercati esteri, insomma com'è sta storia? Al momento potrei dire bella, simpatica anche. Ci racconta com'è avvenuto il passaggio generazionale di questo padre che prima fa l'operaio, poi fa un'azienda e poi a un certo punto dice che deve godersi la vita e la passa ai figli. Ci può raccontare qualche storia, qualche passaggio gustoso? Gustoso non saprei, non è sicuramente il modello ideale, anche perché penso che in questi casi il modello ideale non esista. Sicuramente mio padre è una persona attenta, lungimirante, ha voluto far sbagliare i figli, li ha lasciati sbagliare e ha saputo scegliere il momento giusto a 62 anni di lasciare tutto completamente assolutamente in mano ai 3 figli. E intanto lui che fa? Continua a lavorare. Ah, ecco. Senta, ma fra il 2016 e il 2020 come sarà SM Pack? Come se la immagina? Me la immagino un pochino più strutturata, ancora un pochino più grande, con qualche cambiamento sensibile, importante di mercato, perché come ripeto l'attenzione al mercato statunitense in questo momento è massima. Ecco, ma è in crescita comunque il mercato delle fiale e dei flaconi? Ad oggi i big, le multinazionali, dichiarano come stabile il mercato della fiala, in crescita sicuramente quello del flacone. Bisogna però tener conto una cosa, per quanto nell'arco di un anno si riescano a produrre circa 500 milioni di pezzi. Lei fa 500 milioni di pezzi? Sì, quest'anno però, la prima volta sfonderemo quel per tetto. Per 16 milioni di euro di fatturato, piccoli artigiani a Felino non è male. Ci sono dei numeri che sono spaventosi nell'ambito farmaceutico specialmente, anche nella cosmetica, ma in alcuni rari casi. Ma cosa significa essere a Felino? È un caso? Vi porta dei vantaggi? Vi porta degli svantaggi? Perché Felino, tra l'altro, tutti la conoscono per i salami, uno non si immagina le fiale a Felino. Pensiamo di essere l'unica azienda, comunque del comparto chimico, in un'area prettamente alimentare. Ma come ha fatto suo padre a passare dalla Barilla che fa alimentari alle fiale e ai flaconi? Cosa c'entra? Lo conosco già da 48 anni mio padre, non ho ancora avuto il tempo di fare la domanda, ma giuro che gliela farò a breve. Perché forse perché lui era nel packaging della Barilla, no? Non ricordo. Ha ricevuto questo mandato qua. Lei pensa di aver fatto degli errori che correggerebbe e ha invece delle cose di cui può andare fiero in questi anni di gestione dell'azienda? Di tutte e due sicuramente. Errori tanti purtroppo, ma qualche volta anche benvenuti. Bene, la ringrazio e invito i nostri ascoltatori alla prossima trasmissione di sabato prossimo alle 14. Arrivederci, dottor Mezzadri. Grazie dell'invito ancora, arrivederci.